Noi siamo 11 lavoratori e lavoratrici di 3 musei della Valle Camonica. Io parlo per questo gruppo perché ovviamente è quello che mi compete. In sostanza questi musei sono musei nazionali sotto la direzione regionale Musei Lombardia. Ogni anno viene fatto un bando per il servizio di accoglienza e vigilanza. Cioè ci sono i personale statale e poi c'è un servizio esterno e siamo noi. Siamo assunti da cooperative o ditte esterne e ogni anno viene rinnovato un appalto e un bando diverso. Le condizioni contrattuali da anni sono sempre peggiorative, quindi inquadramenti e contratti che non sono adatti alle nostre mansioni, che prevedono una retribuzione veramente indecente. Quest'ultima volta addirittura peggio, hanno proposto un contratto peggiorativo, quindi per questo abbiamo scelto di entrare in contrattazione con i sindacati, aspettare, non firmare il contratto e quindi i musei sono rimasti chiusi. Si parla di paghe di quanto? Il contratto che avevamo precedentemente è un contratto di meno di 6 euro lordi l'ora. Quello che ci veniva proposto era praticamente peggiorativo. Adesso, iniziando la contrattazione, si sta raggiungendo qualche centesimo in più, quindi si parla di qualche centesimo sopra i 6 euro lordi l'ora. Ovviamente il rischio è che se non firmiamo ci sostituiscono, quindi c'è anche questo problema per cui siamo arrivati al punto di dover firmare l'inaccettabile per poter mantenere il posto di lavoro e poi costruire un discorso, una mobilitazione successiva a questa firma. Se accadrà, aspettiamo di vedere il contratto. Però il fatto che i musei non abbiano aperto significa che voi siete personale necessario. Assolutamente sì, nel caso della Val Camonica la nostra presenza è necessaria per aprire perché c'è una carenza cronica di personale statale da anni. In questi giorni stanno cercando come possono di tenere aperto, in alcuni casi non ci riescono, in altri casi riescono solo mezza giornata, un giorno sì e uno no, quindi è chiaro che occorre dialogare con il servizio esterno, ma occorre anche ripensare tutta la procedura degli appalti, dei bandi, che bandi vengono proposti, che capitolati vengono proposti, che ribassi vengono accettati, perché ovviamente adesso stiamo dialogando con la ditta che ha vinto l'appalto, ma la grande assente di questo dibattito è la direzione regionale Musei Lombardia, quindi il ministero che rende possibile l'attuazione di questi bandi. Questo è. Ecco, in alcune ricostruzioni dei sindacati abbiamo letto che anche le modalità con cui vi chiedevano di firmare il contratto in un parcheggio di un centro commerciale la notte, insomma, erano un po'... Com'è andata? Sì, allora, in questo caso a maggior ragione, nel senso che noi dovevamo prendere servizio il 1 dicembre e abbiamo... la ditta ha parlato con i nostri sindacati il 30 novembre alle 3 di pomeriggio, cioè la prima volta che si sono incontrate la ditta e i sindacati. Siamo stati chiamati uno a uno per andare a firmare un contratto mai visto prima alle 7 di sera nel parcheggio di un centro commerciale. Tra l'altro siamo rimasti lì e abbiamo aspettato, ma nessuno è mai arrivato perché i contratti non erano pronti, quindi siamo tornati a casa, ci è arrivato per mail il contratto alle 9:30 che dovevamo firmare subito per entrare in servizio il giorno dopo. Il contratto era irricevibile perché era addirittura peggiorativo e quindi abbiamo aspettato a firmare e non siamo andati, però per dire le modalità con cui queste ditte hanno a che fare, cioè, con i lavoratori. E ti faccio un'ultima domanda che riguarda ancora una volta il compenso, la paga oraria. Prima dicevi 6 euro lordi, comunque questo è previsto dai contratti nazionali, quindi ci sono contratti nazionali con stipendi da fame sostanzialmente. Assolutamente sì, cioè il brutto di questa faccenda non è solo che a noi viene applicato un contratto che non è quello giusto, perché a noi dovrebbe essere applicato il Federculture, che è un contratto dignitoso e per questo settore, ok? Un punto è questo. Il secondo punto evidente e imbarazzante è che ci sono dei contratti collettivi nazionali firmati dalle più grandi sigle sindacali che permettono di pagare una persona meno di 6 euro lordi l'ora. Cioè queste cose non può esistere, ma per nessun tipo di lavoro, che sia più o meno specialistico, più o meno eccetera, ma non esiste che oggi ci possono essere contratti collettivi nazionali che prevedano paghe del genere. Noi adesso prendiamo, come dire, l'occasione per far emergere tutta una serie di problemi: i lavoratori nei beni culturali, l'azione della direzione regionale Musei Lombardia, come dialoga col territorio, perché anche questa è una grossa mancanza. La direzione regionale non ha neanche comunicato la chiusura dei musei, cioè l'unico comunicato che dava questa notizia era il nostro comunicato sindacale, cioè se no la direzione regionale musei non parla nemmeno con i visitatori, non parla col territorio, non parla con nessuno. Quindi da una parte ci sono tutti questi problemi che emergono, dall'altra secondo noi è fondamentale fare una grossa riflessione su che tipi di stipendi possono essere pagati ancora oggi attraverso contratti non illegali ma firmati da sigle sindacali. Quindi anche questo apre un dibattito enorme che deve essere fatto.